perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Campagna referendaria agli sgoccioli. Salvini, i voti degli italiani all'estero sono stati comprati. Renzi, se vince il sì, niente elezioni anticipate. Rapporto annuale del Censis, l'Italia non investe più e si rigetta nel sommerso. 11 milioni di italiani rinunciano alle cure per i tagli alla sanità. Tasse in ritardo per aver scelto di pagare operai e fornitori. Accusato di evasione è stato assolto un imprenditore. Calcio weekend intenso, questa sera in campo Napoli-Inter, la Juventus contro l'Atalanta, il derby di Roma. Lo studente è sospeso perché rivendeva merendine a scuola. La fondazione Einaudi gli offre una borsa di studio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. Siamo dunque alla chiusura di questa campagna elettorale piuttosto intensa, dunque anche oggi un punto sul sì e sul no. Iniziamo dai favorevoli alla riforma. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, è fantapolitica che possa dimettermi con la vittoria del sì, dice Matteo Renzi, ma in caso di vittoria nel no, nel comizio di Palermo, il Premier dice anche posso lasciare lunedì mattina. Poi si riprende, un modo di dire, un finale poetico, c'è un unico modo, vinciamo. È stata una bellissima campagna elettorale, dice il Premier, sono felice che nel Paese si sia parlato di Costituzione. Servire il Paese è stata la cosa più bella, il risultato è aperto. Si gioca sul filo dei voti e una mano potrebbe arrivare proprio dai voti degli italiani all'estero, che hanno superato le più rosee aspettative di Palazzo Chigi. Un'affluenza boom al 40%, andata oltre ogni previsione, in arrivo dai consolati 1.600.000 schede che potrebbero essere davvero decisive. A questo proposito Renzi risponde anche su presunti brogli. È un film che ritorna, spero di vincere al 90esimo. In ogni caso bisogna rispettare il voto dei cittadini. A te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito. L'altro fronte è quello del no. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è un pressing sugli indecisi, Simone, quello che il fronte del no farà fino a mezzanotte alla chiusura della campagna elettorale, anche rilanciando il nodo del voto degli italiani all'estero. Io penso che nei consolati e nelle ambasciate ne siano successe di cotte e di crude, ha detto questa mattina Salvini, nonostante i voti inventati o comprati in giro per il mondo da Renzi, ha aggiunto il leader della Lega, il voto degli italiani farà vincere il no. Toni più morbidi, ma concetto simile da Brunetta, Forza Italia. È positivo, spiega Brunetta, che votino tanti nostri connazionali residenti all'estero. Speriamo solo che il voto all'estero sia simile a quello in Italia, perché altrimenti potremmo pensare a manovre o condizionamenti. Grillo attacca quindi Renzi sulla scheda elettorale mostrata dal Premier sul Senato. Lo denunceremo per abuso di credulità, ha detto il leader 5 Stelle. Se vince il no subito al voto, ha spiegato Di Maio. Dalla sinistra PD Speranza punta il dito su Renzi e ha detto le sue frasi sul salto nel buio in caso di vittoria del no a 48 ore dal voto sono da irresponsabili. Se vince il no, la legge elettorale sarà riscritta, dice Scotto, Sinistra Italiana. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque Vincenzo Miglietta. E per rimanere in tema di referendum, andando però un po' a ritrovare le persone che sono state colpite dal terremoto, siamo in linea col sindaco di Ussita, Marco Rinaldi. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno, bentornati. Allora, una situazione difficile la vostra, come di quella di tanti altri comuni devastati dal terremoto. Ci racconta come funzionano le operazioni di voto in un posto come il vostro? Ma guardi, noi abbiamo tutti i cittadini trasferiti sulla costa e quindi la grande massa voterà sui seggi limitrofi alle loro residenze temporanee. Per chi verrà qui in zona invece ci sarà un unico seggio a Visso che raccoglierà gli elettori di Castel Sant'Angelo, di Ussita, di Visso, quei pochi elettori, perché come ripeto la massa è trasferita in alloggi temporanei sui camping e sulle strutture ricettive turistiche che stanno sulla costa maceratese marchigiana. Referendum a parte, già che l'abbiamo in linea sindaco, come vanno le cose? Guardi, come vanno, con tutte le difficoltà previste e prevedibili che discendono da una situazione di totale disastro, di totale crolli, di quindi le strutture stiamo preparando con l'urbanizzazione dell'area che accoglierà i container per la cittadella istituzionale, dove andranno gli uffici del comune, i carabinieri, la forestale, la banca, la posta, l'ambulatorio, e questa è la prima operazione che stiamo portando a termine. Nei prossimi 10 giorni dovrebbero arrivare, speriamo che arrivino, insomma, in modo da essere operativi per Natale e cominciare a lavorare in maniera adeguata subito dopo le feste, perché in questo momento i nostri uffici stanno ancora sotto le tende, e stare sotto le tende a 750 metri con la neve che sta intorno a quota 1200 e freddo, disagi. Si può immaginare che anche non per è i dipendenti, i dipendenti del comune stanno facendo uno sforzo. Molto brevemente, sindaco, sono in arrivo anche container per i vostri cittadini, per riportarli. Per i cittadini abbiamo concordato con la Protezione Civile, col Dipartimento, con Curcio Errani, che qui non vengono installati container, ma viene anticipata la consegna delle casette, perché a primavera riporteremo i cittadini dalla costa qui direttamente sulle casette. Speriamo che veramente si riesca a fare in primavera. La ringrazio, grazie Marco Rinaldi, sindaco di Ussita, e naturalmente buon lavoro a lei e a tutte le persone che sono rimaste là a Ussita, nei comuni terremotati, a lavorare per cercare di riportare le cose in ordine e favorire la ricostruzione. È stato presentato oggi il rapporto annuale del Censis, ha seguito la presentazione per noi Teresa Trillò. Dovremmo avere un servizio, no, ce l'abbiamo in diretta. Teresa Trillò, ciao, eccoci. Sì, vai. Ciao Simone, buongiorno. Allora, l'Italia, dice il Censis, è un paese bloccato, non investe più sul futuro, intrappolato nel sommerso e con i figli che sono più poveri dei loro nonni. Un paese pieno di single, sempre connessi, in attesa di una svolta che non arriva mai, e con 11 milioni di italiani che per Italia la sanità sono spesso costretti a rinunciare o rinviare le cure mediche. L'immobilità sociale genera insicurezza, tanto che dall'inizio della crisi sono stati accumulati 114 miliardi di liquidità, equivalenti praticamente al PIL dell'Ungheria. Il paese poi è entrato nella seconda era del sommerso, quindi non più sommerso di lavoro e imprese come negli anni 70, ma sommersi di reddito. Ma sentiamo il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, e poi la linea torna allo studio. Il vero processo rispetto al precedente sommerso, quello degli anni 70, è che questo è un sommerso pieno di soldi, che cerca sempre più soldi e che usa i soldi per fare i soldi, non per fare impresa. E quindi le generazioni future, se vanno verso una realtà come l'attuale, non dico che fanno tutti gli affittacamere, ma saranno più propensi a fare rentier a basso livello, a medio livello, piuttosto che fare impresa con tutto il rischio. Così dunque il rapporto annuale del Censis, grazie a Teresa Trillò. Siamo alla cronaca italiana, a Pavia innanzitutto, per l'incendio nell'impianto dell'ENI. L'allarme è cessato e non ci sono segnali di inquinamento significativo dell'aria nella zona. A comunicarlo l'ENI dopo l'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio presso l'impianto est della raffineria di San Nazaro de Burgondi. Un quadro rassicurante anche dall'ARPA, come conferma Angela Alberici, direttore dipartimento Pavia e Lodi. Noi abbiamo controllato i dati delle centraline dell'aria che misurano in modo continuativo la qualità dell'aria intorno all'ENI. I dati sono assolutamente in linea con quello che si misurava prima dell'incidente, quindi sono assolutamente tranquillizzanti. Sono stati prelevati i filtri per fare l'analisi dettagliata dei microinquinanti che possono essersi riversati a terra. Il personale è rientrato nella raffineria, mentre sulle cause non ci sono ancora idee precise, sottolinea il presidente dell'ENI, Emma Marcegaglia, e i danni non sono stati ancora quantificati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi interrogatori di garanzia per gli accusati delle morti in corsia a Saronno. È iniziato alle 10.30 nel carcere di Busto Arsizio l'interrogatorio di garanzia della coppia diabolica di Saronno. Oltre al GIP Luca Labianca e ai legali dei due indagati, sono presenti anche il procuratore capo di Busto Arsizio Gianluigi Fontana e il pubblico ministero Maria Cristina Ria. Leonardo Cazzaniga, medico anestesista, e la sua amante, l'infermiera Laura Taroni, sono accusati di aver provocato con massicce dosi di farmaci la morte di almeno 4 pazienti nell'ospedale di Saronno e quella del marito della donna. Le vittime della coppia però potrebbero essere molte di più. Gli investigatori stanno analizzando altre 50 cartelle cliniche di pazienti morti in corsia in circostanze sospette. Sconcertanti i contenuti di alcune intercettazioni telefoniche della coppia. I due indagati parlano dell'omicidio come di un modo per risolvere tutte le situazioni con disarmante tranquillità, annotano gli inquirenti nella loro richiesta d'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono i primi indagati per le morti dei lavoratori nella nave a Messina. Sono 5 gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Messina in relazione all'incidente che martedì scorso ha causato la morte di 3 marittimi a bordo del traghetto Sansovino, intossicati mentre pulivano una cisterna. Destinatari degli avvisi, il comandante Salvatore Virzì, tuttora ricoverato al Policlinico di Messina, il direttore di macchina Fortunato De Falco, Luigi Genchi, amministratore delegato della Caronte Entourist, la società che ha rilevato la Sansovino e tutta la flotta della Siremar, e Giosuè Agrillo, titolare di una società che si occupa della manutenzione. Un quinto avviso di garanzia riguarda la Caronte Entourist, chiamata in causa per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, i reati ipotizzati. Questa mattina alle 11 i sindacati di categoria hanno indetto uno stop di 5 minuti sul posto di lavoro in segno di protesta per il ripetersi di incidenti mortali a danno di marittimi e portuali. In contemporanea, in tutta Italia, il suono delle sirene di tutte le navi nei porti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero, il ritiro di Hollande dalla corsa per le presidenziali ancora al centro della scena. Questa è dedicata all'analisi del venerdì di Daniele Biacchessi. Il ritiro di François Hollande alla prossima campagna elettorale sancisce il fallimento del suo mandato presidenziale sul piano politico e dell'immagine. Tutto è avvenuto certamente in seguito alla caduta verticale del suo consenso nei sondaggi. Il presidente francese ha capito il preciso segnale giunto dalle recenti primarie dei conservatori francesi, che hanno eliminato al primo turno Sarkozy e lanciato sulla scena il moderato di destra Fillon. La Francia necessita di nuovi volti. Con l'uscita di Hollande, i socialisti vanno alle presidenziali verso il sicuro disastro, nonostante l'ascesa in campo dell'attuale ministro dell'interno Manuel Valls, l'uomo che ha gestito l'emergenza terrorismo dopo gli attacchi contro Charlie Hebdo e quelli del Bataclan. Ma tutto questo non basta per comprendere fino in fondo la resa e il fallimento di Hollande. La Francia è rimasto l'unico paese europeo dove permane una tradizione di un partito socialista organizzato e potente. In Spagna e in Germania, socialisti o socialdemocratici hanno alla fine dovuto collaborare con i loro storici avversari attraverso governi di larghe intese. Nel Regno Unito i laburisti si leccano le ferite in seguito alla scelta di non opporsi in modo forte alla Brexit. In Italia il Partito Democratico aderisce sì al gruppo dei socialisti europei, ma la sua guida c'è una componente cattolica, dunque di estrazione popolare. Quindi chiunque vinca le presidenziali francesi del 2017 dovrà poi avviare una vasta operazione di ripulitura di macerie, quelle lasciate in eredità da François Hollande. Così dunque il nostro Daniele Biacchessi. Prima di andare al traffico facciamo un punto calcistico, perché il fine settimana è decisamente ricco. Carlo Genta, si apre questa sera con Napoli-Inter, ma c'è anche Juve-Atalanta e poi c'è il derby. C'è il derby, no? Cioè, da qui a Natale, l'abbiamo detto, è una, ogni weekend avrà delle grandi partite. Si comincia stasera appunto in un weekend molto spalmato che, come consuetudine dettata dai calendari di Coppa, si concluderà lunedì. Però stasera subito in campo Napoli e Inter, due squadre sofferenti, certamente due squadre che non pensavano di arrivare a questa sfida, una settima e l'altra ottava in classifica, due squadre in cerca di se stesse, in cerca di autore. Per il Napoli giocherà Gabbiadini, gioco forza, dato che anche il falso 9 Mertens, che gli è stato preferito nelle ultime gare, è squalificato. Per quanto riguarda l'Inter, Pioli prova sulla trazione anteriore. Abbiamo detto molte volte che forse questa è la caratteristica vera dell'Inter di questa stagione, quindi Perisic, Candreva e Banega a supporto di Icardi, sarà una squadra votata all'attacco. Sarà interessante poi domani vedere Juventus-Atalanta, la Juventus contro la squadra rivelazione di questo campionato. Gasperini ieri ha detto con soddisfazione dovranno stare concentrati ed essere pronti ad una grande partita e questo sarà un ostacolo per noi, però è chiaro che è malcelata soddisfazione che l'Atalanta va veramente a Torino quasi per divertirsi e per giocare una grande partita. Poi il derby di Roma domenica pomeriggio ore 15 con un sacco di temi, dalle curve chiuse alle contestazioni, per una gara che invece vale moltissimo dal punto di vista sportivo, ma poi ne parliamo anche con te in tutti i convocati. Sì, sono stato convocato anch'io per questa volta, ci sentiamo intorno alle 2:30 se non sbaglio. Esatto. Ok, a dopo dunque con Carlo Gente e con tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo, iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dalla vicenda che ci ha colpito, ci ha affascinato e ci ha anche fatto piacere, a dire la verità, la vicenda di un imprenditore che è stato portato in tribunale perché ha deciso di pagare operai e fornitori e di ritardare invece il pagamento delle tasse. Ebbene, è stato assolto. Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della campagna per il referendum, del rapporto annuale del Censis, ci siamo occupati, come avete sentito, di calcio, un po' di cronaca anche con gli interrogatori di garanzia per la terribile vicenda di Saronno. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia, ma prima di iniziarlo una risposta ad un ascoltatore. Non basta la par condicio. Ci dicono anche che sbagliamo perché mettere prima il sì e dopo il no, o prima il no e dopo il sì, avvantaggia chi viene per secondo. Facciamo così: alla prossima campagna elettorale ve li mettiamo i servizi in contemporanea, così non ci capite niente e siamo tutti contenti. Iniziamo il nostro giro per l'Italia, va? E iniziamo da San Michele al Tagliamento, siamo in provincia di Venezia. La vicenda di un imprenditore che all'arrivo della crisi nel 2008 ha visto la sua azienda soffrire e soffrire pesantemente. È stato abbandonato, spesso è successo, è stato abbandonato dalle banche, è riuscito però alla fine a non portare i libri in tribunale. L'azienda, anzi, adesso sta andando, ha ripreso il suo corso, e però, come racconta qualche quotidiano locale, in tribunale ci è finito lo stesso per omesso versamento di ritenute certificate. Che cosa ha fatto? Ha preferito pagare gli operai, ha preferito pagare i dipendenti, ha preferito pagare i fornitori e posticipare i pagamenti al fisco. Paola Lorenzon è in linea con noi, è la sorella di Diego Lorenzon, è una socia dell'azienda e anche amministratrice dell'azienda. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, sì, sono Paola Lorenzon, Pulmeccanica SRL, sorella di Diego Lorenzon. Sì, Pulmeccanica SRL, tra l'altro, insomma, voi avete anche lavori importanti, insomma, non è un'azienda da poco. Che cosa fate? Noi in questo momento stiamo lavorando per il MOSE di Venezia, abbiamo lavorato per l'allargamento del canale di Panama, siamo presenti in al Centro America, siamo presenti in Africa. E nasciamo nel 1573, è un'azienda storica assolutamente che si tramanda da parecchi anni. Certo. Abbiamo fatto una scelta, credo, consapevole di quello che poteva avvenire, nella lealtà e nella correttezza di quello che ci hanno insegnato chi ci ha lasciato come grande eredità, no? Fare sì. L'imprenditore per noi significa essere un leader, portare a gestire la propria azienda, portarla avanti nel migliore dei modi, saper trasmettere a colori che ci sono dentro, che ci sono vicino, i veri valori, comunque l'onestà, la lealtà, l'amicizia, la sensibilità. Quel passo che abbiamo fatto di voler era un dovuto. Quello che ci era posto davanti era avere poco denaro e doverlo gestire, no? I dipendenti non potevano aspettare, ci sono monorediti che hanno un unico stipendio per cui non era possibile farli aspettare, i fornitori che erano storici e che ci hanno creduto non potevamo assolutamente abbandonarli portando i libri in tribunale. L'unica cosa che abbiamo scelto con tutta onestà e chiedere allo Stato se poteva rateizzare in pratica questo debito che noi avevamo. E vi è stato risposto cosa? Lo Stato ci ha concesso questa rateizzazione, il 30% di sanzioni, il 7% di interessi, quindi lo stiamo pagando e pagando profumatamente debito che abbiamo. E come si diceva, siete finiti in tribunale. E poi ieri però la bella notizia è che c'è stata l'assoluzione. Assolutamente, nel tribunale c'è finito Diego come persona fisica, come chi ha firmato le carte, come presidente della Pulmeccanica. Credo sia stata una giustizia assolutamente corretta, non ha portato via niente a nessuno, perché se noi avessimo portato i libri in tribunale probabilmente ci avremmo perso in tanti, ci avrebbe perso lo Stato, ci avrebbero perso tutti. Facendo così abbiamo salvaguardato l'azienda, un'azienda che continua a fare innovazione, internazionalizzazione, che continua a formare la persone che ha all'interno e che ci hanno creduto. È un'azienda che in questo momento sta andando bene, che alla fine credo che abbia fatto la scelta più corretta, più impegnativa anche, no? Se vogliamo, su tutti i punti di vista. Quando l'abbiamo scelta sapevamo di andare a pagare molto di più di quello che se avessimo avuto i soldi in quel momento lì. Senta, credo che sia corretto. Senta, ieri in aula tra l'altro è intervenuto suo fratello, che non può essere con noi perché sappiamo che è malato, è uscito sui giornali, lo dico, spero di non, come dire, di non creare problemi di privacy, appunto, però è malato, è intervenuto lui in aula, no? E il PM gli ha dato ragione. Ma il PM si era già astenuto, non aveva dato una sentenza assolutamente. Diego ha voluto a tutti i costi intervenire per poter provare a spiegare qual era, perché era intervenuto in quel frangente, in quella maniera. Ha voluto spiegare che cos'era la sua azienda, ha voluto spiegare le sue scelte, ha voluto far vedere l'onestà e la correttezza che gli ha fatto fare queste scelte qua. Ha voluto fargli, non ha voluto far vedere qualche cosa né di più né di meno di quello che lui è realmente. È una persona dai sani principi, dai principi che dovrebbero assolutamente essere radicati in ognuno di noi, quei principi di lealtà, di correttezza, di responsabilità assolutamente, che oggi chi è leader in un'azienda, chi è leader in qualsiasi campo dovrebbe avere gli atti di responsabilità nei momenti, soprattutto quelli difficili, quelli di scelte difficili. Devono essere fatti e devono essere fatti con onestà e responsabilità. Questo è quello che Diego ha fatto. Come va l'azienda adesso? Bene? L'azienda in questo momento sta andando bene, sì, abbiamo assunto delle commesse ancora importanti nell'internazionalizzazione, sia in America che in Africa, ci stiamo muovendo bene, le risposte incominciano a esserci, non è semplicissimo arrivarci, non è semplicissimo, bisogna spostarsi come mentalità, bisogna essere molto aperti, è un mondo, come ha detto Diego, che è di cristallo, veramente oggi si potrebbe rompere in qualsiasi momento, per cui il lavoro che fai è faticosissimo, l'impegno che ci metti è altrettanto faticoso, le persone ci mettono assolutamente del suo. Noi siamo molto ma molto fiduciosi, abbiamo creduto nel 2008, si figuri se non ci crediamo adesso, che insomma tutto sommato siamo arrivati anche, incominciamo a vedere l'orizzonte. Allora io la ringrazio, grazie Paola Lorenzon per questo bel racconto. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire tra un attimo che cosa succede in borsa e poi torneremo a parlare di come lo Stato a volte tratta le imprese, perché torneremo, o gli imprenditori, perché torneremo sulla vicenda di quel ragazzo che, lo ricordate, rivendeva le merendine a scuola facendo sostanzialmente concorrenza al bar della scuola. Ne avevamo parlato col preside, il quale aveva suscitato qualche dubbio da parte vostra. Ebbene, la Fondazione Einaudi ha deciso di concedere una borsa di studio a questo ragazzo che comunque è stato sospeso per questa vicenda. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: campagna referendaria agli sgoccioli, Salvini dice i voti degli italiani all'estero sono stati comprati, Renzi se vince sì, niente elezioni anticipate. Il rapporto annuale del Censis, l'Italia non investe più e si rigetta nel sommerso, 11 milioni di italiani rinunciano alle cure, dice l'Istituto di Ricerca per i tagli alla sanità. Le tasse in ritardo per aver scelto di pagare operai e fornitori, la storia l'avete sentita, accusato di evasione è stato assolto un imprenditore veneto. Una notizia di poco fa, infine, una donna è morta a Pescara dopo essere stata coltellata al culmine di una lite con il convivente. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro per l'Italia tocca adesso Torino. Della vicenda ci eravamo occupati, ne avevamo parlato con il preside dell'Istituto Pininfarina di Moncalieri, dove c'era questo ragazzo che aveva deciso di mettere su una sorta di mercato parallelo delle merendine rispetto a quelle del bar e delle macchinette, un mercato parallelo nel quale faceva pagare le merendine meno soldi, e il preside, o meglio il consiglio di classe, aveva deciso l'anno scorso di sospenderlo per 10 giorni e oggi deve arrivare la decisione su un'altra sospensione perché l'ha rifatto quest'anno. Si è aperto tutto un dibattito sul fatto che lo Stato blocca nelle sue varie istituzioni l'iniziativa imprenditoriale delle persone. La Fondazione Einaudi ha deciso in realtà di contattare questo ragazzo e di premiarla questa iniziativa imprenditoriale. Giuseppe Benedetto è il presidente della Fondazione Einaudi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa fate? Gli date dei soldi? Sì, diamo una piccola borsa di studio, che è poi quella che diamo durante l'anno per la scuola di liberalismo. Gli daremo una borsa di studio di 500 euro e gli doneremo alcuni testi di liberismo applicato, come dire, di sia classici che contemporanei, in modo tale che il ragazzo, non so se ha letto già questi testi, ne dubito, ma insomma capisca che ha fatto e ha applicato dei principi che per noi sono dei principi utili, direi nobili, di liberismo che nella quotidianità questo ragazzino, questo bambino a 16 anni, credo. Perché nella vostra lettura è un inserire la concorrenza in un ambiente non concorrenziale. Dicevo prima, il liberismo applicato nella quotidianità, nelle piccole cose, ma è lì che nasce il germe del liberismo. Questo ragazzo ha scoperto che il distributore automatico, credo, vendeva un euro, quello che il negozio sotto la scuola vendeva a 30 centesimi. E lui ha detto, io li vendo a 50 e ci faccio un piccolo guadagno, la paghetta mensile che mio papà non mi può dare. Io credo che abbia fatto una cosa che vada premiata e lo vogliamo fare come gesto simbolico. Noi non entriamo in concorrenza con la scuola fa il suo mestiere e proceda come ritiene, ma noi siamo la Fondazione Einaudi, siamo la casa dei liberali, come lei sa, ed è giusto che rispetto a un gesto di questo genere, in maniera simbolica, anche come esempio per altri giovani, procediamo premiando questo ragazzo. L'avete già contattato? Sì, l'abbiamo già contattato e le posso anticipare che sarà a Roma per ricevere questo premio e faremo una piccola manifestazione in fondazione il 13 dicembre mattina. Qualche ascoltatore ci dice, avvocato Benedetto, cominciamo ad educare ai guadagni al nero senza pagare le tasse allo Stato. Complimenti. Sì, è certo, capisco bene quello che dice l'ascoltatore. Quello che diciamo noi liberali, noi della Fondazione Einaudi, è che prima di pensare al nero di 20 centesimi, pensiamo a una burocrazia che ci opprime, sta uccidendo questo paese e inoculando nei gangli vitali del paese un virus letale. Noi moriamo di burocrazia e di regole insensate. Guardi, io non sono un liberale che inneggia necessariamente allo Stato minimo. Per me lo Stato deve esserci, deve avere delle regole. Ma quando lo Stato viene da tassatore e vessatore, quando lo Stato si occupa del ragazzino che vende, guadagna 20 centesimi sulle merendine, quello è uno Stato che non mi appartiene, non ci appartiene, altro che nero. Allora io la ringrazio, grazie a Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, per essere stato con noi. Un ascoltatore tra l'altro ci scrive: io ho fatto la stessa cosa 5 anni fa eppure nessuno mi ha dato una borsa di studio. Vabbè, insomma, però questo è arrivato sulle cronache dei giornali, evidentemente la Fondazione Einaudi ha deciso da questo punto di vista di intervenire. Noi restiamo a Torino nel nostro giro per l'Italia. Restiamo a Torino perché ci siamo occupati nei giorni scorsi della rivolta che c'è stata nelle ex palazzine del villaggio olimpico da parte di un gruppo piuttosto nutrito di immigrati, perché c'erano stati dei diverbi, erano state lanciate delle bombe carta contro queste palazzine, c'era un problema di abusivismo, appunto, cioè di presenza abusiva, di occupazione di queste palazzine da parte degli immigrati, grandi proteste. Si è scoperto in questa prima fase di censimento che in realtà gran parte di queste persone sono 1200 circa, 1000 sono perfettamente regolari, cioè hanno permesso di soggiorno oppure sono rifugiati politici riconosciuti. Abbiamo parlato di questo e siamo tornati a raggiungere Davide Ricca, che è il presidente della 10ª circoscrizione, quella di Torino a cui appartiene quest'area dell'ex, appunto, villaggio olimpico. Sentiamo che cosa ci ha detto. Ma allora, io non ho notizia della chiusura del censimento, l'ho presa come voi dai giornali, la circoscrizione non ha notizia, perché il censimento di cui si parlava doveva essere un censimento concordato anche con gli occupanti, che andava a vedere i numeri, le skill, le attitudini anche professionali per percorsi di reinserimento. Io non penso che sia un problema se sono regolari, cosa che in gran parte noi dicevamo da tempo in circoscrizione. Noi sappiamo che non abbiamo tutti quei numeri di clandestini che erano ventilati, di cui si era parlato nei scorsi giorni, anche perché quello che è necessario è lo sgombero una alla volta delle 4 palazzine e l'individuazione di soluzioni abitative alternative. Se le persone sono regolari, queste procedure dovrebbero avvenire più velocemente. Perché ovviamente sono più facilmente identificabili, ovviamente, no? Sì, assolutamente sì. Noi il dato che avevamo era dei numeri dei residenti che siano registrati in casa comunale come residenza, quindi non in quella luogo ma nella casa comunale di Torino, i numeri erano comunque alti. Senta una cosa, sono in arrivo, leggiamo e non sappiamo quando, 150 militari, sono stati richiesti dal prefetto, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche per cercare di mantenere un po' la calma nel quartiere, dare una maggiore sensazione di sicurezza ai cittadini, immagino sia quelli italiani, come ci siamo detti, sia a quelli stranieri, perché lo ricordiamo, tutto è nato poi da delle bombe carta lanciate contro queste palazzine da un gruppo di ultra del Torino, almeno questo è quello che sappiamo. Non c'è un po' un rischio di militarizzare la zona? Guardi, io ho parlato col prefetto l'altro ieri, ci siamo sentiti telefonicamente, e i militari dovrebbero essere una 50ina fino a Natale, anche perché i militari devono presidiare anche altre zone a rischio per problemi più importanti relativi al terrorismo internazionale. Lo stesso prefetto mi ha detto e mi ha assicurato che non ha alcuna intenzione di militarizzare il quartiere, ma che la presenza dei militari sarà una presenza discreta non solo vicino alle palazzine, ma in tutta l'area del quartiere dove c'è stata un po' di sensazione di paura. Il quartiere oggettivamente non ha reagito male, è dal 2013 che c'è questa situazione. L'ultimo caso a cui lei fa riferimento, poi io non so se ha lanciato le bombe carta, vedranno gli inquirenti, è stato un caso in tre anni e mezzo, probabilmente dovuta a dinamiche che poco c'entrano col conflitto tra il quartiere e gli occupanti delle palazzine. Il quartiere è un quartiere che sull'integrazione è cresciuto e chiunque avrebbe dei problemi se in un territorio, se in 4 palazzine dove ci devono essere 400 abitanti ce ne sono 1200-1400, indipendentemente dal colore o dal sesso degli abitanti, è evidente che il problema è un problema che colpirebbe quel quartiere. E noi continuiamo a parlare di immigrazione, ma ci spostiamo in Puglia, nel Foggiano. Un incendio questa mattina, anzi ieri sera a tarda ora, si è sviluppato nel cosiddetto granghetto di Rignano. Siamo a pochi chilometri da San Severo, in provincia di Foggia, dove alloggiano, e lo Stato lo sa benissimo, tanto che la prefettura aveva ipotizzato già uno sgombero a partire da luglio, dove alloggiano nelle baracche centinaia di migranti che sono impegnati nella raccolta di prodotti agricoli. Nell'incendio sono andate distrutte circa 80 baracche. La CGIL rimarca che il fenomeno del ghetto pugliese interessa l'opinione pubblica e le istituzioni soprattutto nei 3 mesi estivi, mentre sembra cadere nel dimenticatoio per i restanti mesi. C'è una soluzione suggerita dal sindacato. Anna Marino ha intervistato Peppino De Leonardis, segretario della CGIL Foggia e già segretario dei lavoratori del settore alimentare. Sentiamo. Se parliamo dei migranti, il 99,99% dei migranti lavora esclusivamente con caporali. Hai un contesto abitativo che vivi in baracche fatte di cartone, plastica e amianto, quindi anche tossico. Nel periodo estivo si raggiungono 2.000-2.500 e avere 20 bagni chimici per 2.500 persone significa non dare una risposta, così come avere 10 cisterne di acqua pseudopotabile in contenitori dove non si fa la manutenzione significa non dare acqua potabile. Lo scorso 30 luglio si era già pensato un allontanamento, ma queste persone sono lì per lavorare. Che sanzioni rischiano i caporali? Rispetto alla nuova legge rischiano l'arresto, rischiano le sanzioni e anche per quel che riguarda il mondo delle imprese, le imprese rischiano la confisca dei beni, ma continuano ad utilizzare gli strumenti del caporalato. Che cosa bisognerebbe fare? Noi proponemmo la costruzione di ecovillaggi con moduli abitativi costruiti dagli stessi migranti. Quest'idea progettuale aveva un importo totale di 1.375.000 euro. La regione Puglia da 12-13 anni spende 1 milione di euro l'anno per la sola acqua potabile e non è più potabile. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.